Anni 10. Suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. I want this guy in our spot. Yes. We can take it to the next level. I want him on billboards. Perfect. I want him on the side of a bus. I want this guy everywhere. Eating Doritos everywhere. Endlessly. Insomma, nel 2010 capita di crescere, se si è dei ragazzini americani, vedendo tanta televisione, alla televisione vedendo tanti spot pubblicitari, e in questi spot pubblicitari vederne spessissimo uno in cui c'è questo Mr. Doritos, che è un uomo che diventa famosissimo, di grande successo, semplicemente perché sa acchiappare al volo delle patatine che chiunque gli tira, è una specie di fenomeno, no? Nazionale, gli danno una specie di Oscar, di Nobel alla patatina acchiappata, patatina che in America si traduce in junk food, in cibo spazzatura, e che è protagonista in questo momento di un attacco, anzi diciamo proprio che è sotto attacco dalla personalità, almeno per metà del cielo americana, più amata e più seguita, ovvero la First Lady Michelle Obama. Ve ne abbiamo già parlato, ma torniamo a parlarne in apertura ad anni 10 oggi, perché ci sembra molto anni 10 quello che Michelle Obama sta facendo con sempre maggiore convinzione negli ultimi mesi, ovvero farsi paladina, portabandiera, interprete e testimonial di una campagna che ormai è arrivata, pensate, addirittura sulla copertina di Time, ovvero il settimanale più importante e più seguita d'America. La campagna si chiama Let's Move ed è una cosa complicata, organizzata, strutturata, ma che riguarda comunque un attacco diretto al problema dilagante della obesità in America, in particolare della obesità infantile, un problema che Michelle Obama, col suo stile così molto volitivo, decisionista, ha deciso di prendere per le corna. Let's know that we're all very proud of you. And we're all very proud of every single one of your classmates and every single student here in the city of Philadelphia and the state of Pennsylvania. I am so pleased. Questo è l'atteggiamento che Michelle sempre manifesta nei confronti dei ragazzi americani. Prima di tutto sono orgogliosa di voi, siamo tutti orgogliosi di voi, di come state crescendo, di come vi state preparando ad essere la prossima generazione americana, perché la novità di Michelle Obama nell'approccio a questo problema, sul quale tra l'altro scrive di proprio pugno insieme al suo staff, ma insomma firma l'articolo di copertina di Time di questa settimana, è che la responsabilità va spostata verso l'alto, verso i grandi, verso il mondo degli adulti. Vi leggo l'attacco di questo pezzo che mi sembra, insomma, al di là delle ipocrisie del politicamente corretto, mi sembra esemplare di come si possa approcciare anche in modo estremamente coinvolgente una questione in questo momento. Scrive Michelle Obama: da anni siamo a conoscenza della epidemia di obesità infantile in America. Dalle statistiche veniamo a sapere che un terzo dei nostri bambini sono sovrappeso o obesi. Assistiamo agli effetti che questo ha sui nostri ragazzi, su come si sentono, sulla esperienza che hanno di loro stessi, e conosciamo i rischi per la loro salute e per la nostra economia, i miliardi di dollari che spendiamo ogni anno per curare le malattie connesse all'obesità, come quelle del cuore, il diabete e il cancro. Ma sappiamo anche che non è sempre stato così. Quando molti di noi sono cresciuti si conduceva una vita piuttosto salutare. Andavamo a scuola a piedi tutte le mattine, si passavano i pomeriggi giocando all'aria aperta, a casa si mangiavano pasti cucinati in famiglia e c'erano sempre delle verdure nei nostri piatti. Per la maggioranza dei ragazzi di oggi quelle camminate sono state sostituite da macchine e autobus. I pomeriggi a giocare fuori sono mutati in pomeriggi a giocare dentro casa, con videogiochi oppure a guardare la televisione, e con i genitori impegnati a lavorare fino a tardi nessuno ha più tempo di preparare delle cene in famiglia degne di questo nome. È chiaro che tra la pressione dell'economia e il ritmo forsennato della vita moderna il benessere dei nostri ragazzi è piombato in un'area a rischio. Perché dobbiamo essere onesti con noi stessi, scrive ancora Michelle Obama, non sono i ragazzi a farsi questo da soli, non sono loro a decidere che cosa viene loro offerto nella mensa della scuola e quante devono essere le ore di ginnastica durante quelle di studio, non sono loro a scegliere di produrre cibi rimpinzati di zuccheri e sodio, il famoso cibo supersized, no, al centro anche di un film molto divertente e molto interessante, molto centrato sull'argomento, per poi vedere bombardati questi stessi ragazzi di pubblicità riguardo al trash food. Siamo noi, scrive Michelle Obama, questo è il cuore del ragionamento, siamo noi incaricati di decidere, siamo noi i responsabili e adesso dobbiamo decidere di risolvere questa emergenza. Pensate che Michelle Obama, per pubblicizzare questo messaggio, ha rotto addirittura un incantesimo, ovvero lei prima, poi anche suo marito Barack Obama, come dire, hanno fatto pace con Fox News, che è una emittente conservatrice con la quale da tempo la famiglia Obama era in rotta, ma pur di aprire un discorso, un tavolo di dibattito su questo argomento sociale così importante, forse importante quanto quelli politici, gli Obama sono andati anche a Fox, e questa è una spedizione che noi seguiamo con il massimo affetto. Anni 10. Parole. You remember when you were with the Beatles and you were supposed to be dead and there's all these clues that like he'd play some song backwards and it'd say like Paul is dead and everyone thought that you were dead or something. Yep. Beh, questa ve la faremo sentire quasi tutta, è una intervista molto divertente realizzata tanti anni fa, una ventina d'anni fa, da Paul McCartney, che è quello che dice semplicemente yeah, sì, alla fine, a un emozionatissimo e anche piuttosto comico intervistatore che gli chiede: ma tu sei quello che una volta sarebbe finito sotto una macchina e poi che se uno dopo metteva quel disco al contrario e sentiva con attenzione, allora in sottofondo si sentiva una vocina che diceva Paul è morto e quindi insomma tu sei morto, sei tu quello? Lui dice sì, e introduce un tema divertente su cui il New York Magazine di questa settimana pubblica un articolo spassoso, naturalmente per tutti noi che lo leggiamo, molto meno per gli interessati. L'articolo è intitolato La società di coloro che possono dire ho letto il mio necrologio, che sono tantissimi, si scopre, le celebrità come peraltro Paul McCartney, che da quasi mezzo secolo ormai è inseguito dalla leggenda metropolitana. Qui siamo nell'area Parole di Anni 10 e oggi a Parole abbiamo iscritto anche le leggende metropolitane, per l'appunto. Sono tantissimi quelli che sono prima o poi incappati in un incidente di percorso di questo genere. La lista è piuttosto spassosa, comprende spassosa perché poi per fortuna sono tutti vivi, comprende un Harrison Ford annegato cadendo dal suo yacht, Miley Cyrus, ovvero Anna Montana, insomma, se avete più di 20 anni non sapete che Miley Cyrus è Anna Montana, che sarebbe morta la stessa sera in cui stava facendo in realtà un concerto. Poi Jeff Goldblum, attenzione, caduto da uno scoglio nel 2009, caduto da uno scoglio in Nuova Zelanda, ci torneremo su questo. Poi Mark Twain, che scrisse un famoso articolo in cui cominciava dicendo la notizia che sono morto è esagerata, e poi andava avanti a prendere in giro i giornalisti. Poi Joe DiMaggio, che lesse sulla striscia di notizie in televisione la notizia della sua stessa morte, insomma ci restò un po' male. Lo stesso capitò a Bob Hope, e poi soprattutto Natalie Portman, la giovane attrice che nel giugno dello scorso anno è stata data per morta, caduta dallo stesso scoglio della Nuova Zelanda. Per cui abbiamo capito che una delle notizie virali, una delle leggende metropolitane virali in circolazione in questo momento, parla di cadute da uno scoglio della Nuova Zelanda. Quindi in linea di massima, se leggete la notizia che una qualsiasi star sia morta, un divo, una celebrità sia morto cadendo da uno scoglio della Nuova Zelanda, girate pagina, perché è sicuramente una balla. During the winter, do you know where the ducks from Central Park go? Nowhere. Nowhere? They stay right there. Stay right there? Because they get good food. Allora, un ragazzino così assetato di risposte, di interrogativi, anche di fascinazione, insomma, nei confronti di J.D. Salinger, di cui tanto si è tornati a parlare dal momento che se n'è andato, 91 anni, qualche settimana or sono, e adesso si annuncia, no, finalmente questa pioggia di prodotti salingeriani che dovrebbe ricoprirci a breve. Un ragazzino che trovate anche su YouTube è andato in giro per New York a porre ai newyorkesi la fatale domanda: scusi, dove finiscono le papere di Central Park quando è inverno? Che, come sapete bene, è la domanda che si pone Holden Caulfield. Il passante incontrato nella fattispecie gli risponde: da nessuna parte, linea massima, restano lì. Ma poi ci sono anche molte altre risposte, potete vederlo questo breve documentario. C'è chi dice vanno a sud, c'è chi dice se le mangiano gli schioiattoli, insomma c'è di che. Ma c'è di che soprattutto se capitate a New York e dintorni e siete salingeriani convinti, perché le principali biblioteche d'America si stanno organizzando a mettere in mostra i loro piccoli tesoretti, appunto, di inediti di Salinger. Stanno uscendo parecchi articoli al riguardo. Sicuramente ci si chiede che cosa poi emergerà dalla libreria, dalla scrivania, dalla cassaforte di Salinger. Sono annunciati addirittura decine di romanzi, di scritti, di racconti. Alcune cose inedite già si possono vedere fin d'ora, e i luoghi consigliati sono in particolare l'Università di Princeton, in particolare la biblioteca Firestone, questo è il nome. Attenzione, dovete lavarvi le mani prima di entrare, in certi casi dovete indossare dei guantini, non potete portare né computer, non potete portare macchine fotografiche, telefonini, niente, non potete fare fotocopie. Quelle che vi danno sono delle, peraltro, copie, non gli originali, ma potete prendere visione di ben 5 racconti inediti di Salinger che risiedono nella biblioteca. Harvard a sua volta ha diversi inediti, valgono in particolare il viaggio 7 lettere scritte da Salinger tra il 58 e il 61. Le regole sono meno severe, qui basta non fare fotocopie. A New York, nella biblioteca pubblica di New York, la New York Public Library, è consultabile l'intero archivio di manoscritti di Salinger per il New Yorker, per il noto settimanale, e inoltre la Università del Texas, qui dovete viaggiare un po' più lontano, a Austin, nel suo centro che si chiama Harry Ransom, ha a sua volta 4 storie scritte con la macchina da scrivere da Salinger, 2 delle quali del tutto inedite. Potete pagare qualche dollaro e farvene delle fotocopie. Let me hear you, everybody! A one, a two, a three! E abbiamo già parlato, No, no, sentiamo un attimo. Questo è l'inno di cui vuoi portarmi a vedere una partita di baseball, una delle canzoncine, delle cantilene più note d'America. Abbiamo parlato poco fa di Mark Twain e delle false notizie che circolano intorno alla sua morte quando era in vita. Lui campò fino a ben dentro il XX secolo, nel 1911. Mark Twain, nella fattispecie, è stato uno dei primi famosi d'America a interessarsi al gioco del baseball, e anche qui ci sono dei documenti che escono al riguardo e che sono ora consultabili. Tutto accade a Berkeley, all'Università di California, dove è attivo un progetto Mark Twain che ora ha messo in circolazione con grande eco sui giornali americani. Il New York Times in particolare pubblica un lungo articolo al riguardo, come si configurava la grande passione passione di Mark Twain per il gioco del baseball. Stiamo parlando del 1870-80, insomma all'inizio, proprio all'alba dello sport, no? Addirittura dello sport professionistico, che nel baseball era già attivo nel XIX secolo. Mark Twain sostenne attivamente la squadra di Hartford, dove abitava, dove viveva, dove si era costruito la casa, ci mise anche dei soldi in proprio e soprattutto non si perdeva una partita. Sono stati ritrovati poi i taccuini su cui prendeva appunti durante le partite. Sono molto divertenti perché, come qualsiasi ragazzino o nonno appassionato di baseball, segnava i punti e segnava tutto quello che succede nel baseball. Questa è la parte forse più divertente del gioco, tenerne il proprio conteggio, una mania della statistica, dei numeri applicati allo sport. È tutta una notizia da archiviare, naturalmente, la voce dell'amore per questo paese, in particolare molto divertente, perché poi con Mark Twain si ride quasi sempre, la paginetta che si appuntò sul taccuino in questione per poi pubblicarla su un giornale locale. Un giorno gli fregarono l'ombrello alla partita di baseball, offrì $5 di ricompensa se qualcuno gliel'avesse riportato, e poi tristemente appuntava a fondo della pagina che la giornata era stata nera, la sua squadra aveva anche perso. Singer Eddie Vedder. A one, a two, a three, save me out to the ball. Ecco, vogliamo sentire anche Eddie Vedder, il cantante di Pearl Jam, in stato alcolico piuttosto avanzato, canta anche lui "Portami alla partita di baseball". Per concludere lo spazio parole di anni 10, oggi la nota soltanto relativa alla recensione molto molto complimentosa, molto positiva, ricevuta da Paolo Giordano sul New York Times il 12 marzo. È stato pubblicato in America La solitudine dei numeri primi, che tanta attenzione e successo ha ricevuto anche in Italia. Raramente, direi che l'ultima volta era capitata con Saviano, un libro italiano viene accolto in modo così positivo. Si parla di formidabile scrittura, di grande sottigliezza delle descrizioni, e poi si resta un po' stregati, come hanno fatto anche i nostri lettori, da questa capacità, no, di fondere scientificità e sentimenti, che ha fatto colpo sul pubblico italiano e lancia Paolo Giordano anche presso i lettori americani. Yeah. Let's go. Damn right, nigga. Yeah. What? Yeah. Okay. Yeah. Girls be asking me, you know, how long I can go for. I tell them like this, nigga. I do it all night. I do it all night. I do it all night. I make them say, oh. Oh, oh, oh. Anni 10. Suoni. Pensare che questa registrazione, che teniamo, la teniamo in sottofondo perché è bellissima, è quasi commovente, no? Ha 40 anni di vita, è il 1971, John Lennon compie 31 anni, fa una bella festicciola a cui partecipano alcune, come dire, delle teste più, no, più luminose e roventi dell'epoca, e cantano insieme con la chitarra, il tamburello, anche mi sembra, belli su di giri. Erano presenti quel giorno, oltre a John, Allen Ginsberg, pensate un po', Ringo Starr. Cantano stranamente una canzone Paul McCartney, quella è anche l'Albert, quella che sentite in sottofondo, che poi entrerà a far parte dei primi dischi solo di Paul McCartney. E questa registrazione, molto di fortuna, è stata fatta da un'altra star presente a quel party, ovvero Phil Spector, che al momento era il produttore più celebre del mondo. Passa il tempo, passano gli anni, tanti se ne vanno, Lennon, Ginsberg, no? Tanti dei presenti purtroppo non sono più con noi. Phil Spector c'è ancora, ma forse non è neanche troppo contento di esserci, perché a 70 anni si trova dietro le sbarre di una prigione californiana. Come forse ricorderete, c'è stato un processo seguito a una storia misteriosissima, una notte di bagordi finita con un colpo di pistola sparato in bocca addirittura a una ragazza conosciuta per caso, una attricetta che si chiama Lana Clarkson, e un lungo processo finito con la condanna a Phil Spector per omicidio. Ora si riapre il caso e Hollywood sta attento, perché dopo, come dire, dopo le cadute ci sono spesso le occasioni per rialzarsi, e viene offerta, in questo caso bisognerebbe anche capire la legittimità del tutto, anche a Phil Spector, che i giornali, la stampa, i media americani hanno sempre considerato in modo indiscutibile colpevole di questo omicidio. Di fatto c'è un ricorso molto potente, anche molto ricco, molto danaroso, e quindi si sa quanto la giustizia americana senta il peso dei dollari per un errore giudiziario e per irregolarità procedurali nel processo che ha portato alla condanna di Phil Spector. Soprattutto pare forte, commenta oggi Time, il settimanale Time, la tesi propugnata dalla difesa di Spector, che siano stati usati a carico del grande produttore musicale le testimonianze di altre donne che lo avevano conosciuto naturalmente prima della brutta storia, e che hanno testimoniato dicendo sì a Phil piaceva sempre giocare con le armi, e allora per induzione è stato usato questa tendenza come prova. Ora il ricorso è in atto e la giustizia americana in questi casi è piuttosto rapida a offrire un verdetto. Di fatto Phil Spector e le sue amorose pettinature in questo momento sono in prigione. It is my honor to induct into the Rock and Roll Hall of Fame, and it's about time, the Stooges! Il pip è perché naturalmente era partita la parolaccia. Il presentatore in questione è Billy Joe Armstrong, il cantante dei Green Day, chiamato, perché chi meglio di lui, a premiare finalmente Iggy Pop and the Stooges alla Hall of Fame, l'arca di gloria del rock americano. È stato finalmente ammesso dopo che per un sacco di volte l'avevano lasciato fuori. I didn't think they'd ever have us in that club. I was shocked and surprised. So I was too, you know, I've told. E questo è lui che fa finta, come dire, di essere emozionato. Sono scioccato, sono sorpreso. Del resto, ragazzi, se non mettono Iggy Pop nella Hall of Fame, chi ci mettono? Anche perché io fossi in lui sarei incavolato. Tra l'altro sappiate che mentre faceva il discorso di ringraziamento era salito su vestito in smoking, si stava spogliando e si è spogliato fino a restare, come piace tantissimo a lui, nudo, per poi fare insomma il suo numero. Ma insomma, insieme a lui hanno ammesso i Genesis e Passi, e gli Hollies e vabbè anni 60, Jimmy Cliff, che è un cantante reggae gloriosissimo, questa è la Hall of Fame del rock and roll, e poi gli ABBA, hanno ammesso gli ABBA alla Hall of Fame del rock and roll, e su questo io, come dire, farei una petizione di protesta. E poi non ammettiamo Iggy Pop, ma che scherziamo? Adesso parliamo di suoni veri e propri, perché questa è l'area della musica di anni 10, delle cose nuove, delle cose che come missione di questo programma noi vi sottoponiamo all'attenzione, perché magari non ve ne siete accorti. Noi non ci occupiamo del mainstream, ci occupiamo di darvi delle idee per dei consumi culturali magari leggermente più nascosti, più da andare a trovare. Nella fattispecie questo è un disco di punk folk rock americano, anzi del New Jersey, che sta destando molto interesse, ha avuto critiche eccellenti dalla stampa negli Stati Uniti e non solo. La band è al secondo album, si chiama come un celebre personaggio, nonché una celebre opera di William Shakespeare, si chiama Titus Andronicus, e l'album si intitola The Monitor. The Monitor è il nome di una celebre barca da guerra, nave da battaglia della guerra civile americana, famosa per essere tutta costruita in metallo, quindi forse inaffondabile, nessuno poteva sconfiggerla, proteggeva le coste degli Yankee, no? Dell'esercito di Lincoln all'inizio della guerra civile americana. È infatti un concept album che anche con qualche prolissità, qualche lungaggine, qualche stonatura, qualche manierismo di troppo, però prova ad attualizzare, a raccontare a modo proprio, all'altezza del 2010, in chiave punk ma con radici folk, appunto quelle vecchie storie di radici americane. In testa invece alle classifiche americane questa settimana c'è un altro disco, e però vi segnaliamo perché l'artista in Italia non è particolarmente conosciuto, ma è di grande bravura, anche peraltro di grande commercialità, assai fruibile, se si può dire così, soprattutto se vi piace il rap e dintorni del rap. Si chiama Ludacris, è un rapper che vende, non scherziamo, cerco 20 milioni di dischi in tutto il mondo, ha venduto 15 milioni negli Stati Uniti d'America, è di Champaign, Illinois. Dopo Jay-Z ha messo in circolazione il blueprint di Jay-Z, questo è il nuovo discone rap, no? Il disco che venderà tantissimo ovunque, si chiama Battle of the Sexes, la battaglia dei sessi. Ha debuttato con delle vendite in realtà un po' malinconiche, perché con 137.000 copie, come ha venduto Ludacris nella prima settimana, un tempo eri decimo in classifica, ma la crisi è la crisi, con numeri di questo tipo in questo momento si va al numero uno e ci si mette dietro i Gorillaz, per esempio, che hanno venduto 100.000 copie, o addirittura Jimi Hendrix, che ne ha vendute un po' meno, 95.000, ma con il suo 34esimo album postumo, ve ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Un disco rap divertente, grande intrattenimento, molta leggerezza, un sacco di ospiti, questo è Ludacris. Everybody with me drunk as fuck, break it down and roll it up. Everybody with me drunk as fuck, break it down and roll it up. Everybody with me drunk as fuck, break it down and roll it up. Anni 10, figure. Gandhi ha detto che qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu la faccia. Agente, loro cercavano di farli smettere. Va a casa. Ehi, ehi, ehi, non... Concordo con la prima parte. Sentirò bene questo trailer, perché secondo me non ve lo scorderete facilmente, lo sentirete un sacco, perché il film in questione è annunciato come la pellicola più strappalacrime dai tempi del Titanic di DiCaprio e le sue storie d'amore a bordo del Titanic a oggi. Non a caso il protagonista è quello giusto, Robert Pattinson, che altri non sarebbe, no, che la star vampiresca di Twilight, ovvero in questo momento il ragazzo che occupa il cuore di milioni, milioni, milioni di fanciulle in tutto il mondo. Ha fatto finalmente il film non Twilight. A noi interessa, naturalmente, più che recensire il film, che non è nostro compito, analizzare il fenomeno, che invece è assai curioso per una serie di cose che si raccolgono dentro dentro questo film. Prima di tutto, certamente, un'osservazione sugli andamenti del divismo, no? Non solo americano ma contemporaneo, questi sono divi globali, e sulle forme che questi ragazzi, diventando in un certo senso grandi come attori e quindi anche come personaggi, si devono dare o possono scegliere di darsi. In questo caso, diciamo, e Pattinson è rimasto sul classico, ha accettato di perpetrare, di tenere in piedi, di continuare a fare il bel tenebroso, diciamola così, anche se con delle sfumature molto più ricche e anche più profonde di quelle di Edward il vampiro, no? Qui siamo da altre parti, siamo dalle parti del melò, perché questo film è a tutti gli effetti un melodramma, racconta una storia d'amore con un sacco di coni d'ombra, di spigolature, ma anche poi di inattesi episodi scuri, tragici, che soprattutto si fa carico di una operazione assai particolare. Il film è ambientato nel 2001, nell'estate del 2001, e quindi non è difficile capire dove si va a parare se si è dalle parti di New York. Si finisce a Ground Zero, a quello che sarebbe diventato Ground Zero. E allora, che cosa fa questo film? E questo è il ragionamento più interessante che può valere come stimolo per andare a vederlo. Prova a raccontare Ground Zero questa volta a un pubblico underage, no? di ragazzini, che saranno quelli che vorranno vedere il film con Pattinson, ovvero parla dello shock dell'11 settembre, in sostanza, a coloro, ai primi tra coloro che non c'erano, perché soltanto 9 anni fa erano bambini o poco più, e quindi l'11 settembre entra a far parte della cultura popolare giovanile anche attraverso dei consumi fiction come questo film, che ha delle recensioni non eccellenti ma però gode di un certo rispetto, perfino di un certo sguardo piuttosto solenne da parte dei critici, che tutto sommato apprezzano la delicatezza del tocco in relazione a questo risvolto particolare. Invece poi c'è Pattinson e i suoi occhi così profondi come lagune, come dicono i ragazzini, e quello magari avrà l'aspetto primario. I thought I could get away with whatever I wanted to. I felt that I had worked hard my entire life and deserved to enjoy all the temptations around me. Io ho lavorato duro tutta la vita e quindi sono convinto di meritare di cadere in tentazione in ogni modo possibile. Questa naturalmente è una satira, anzi una parodia, ed è la parodia che South Park, nella sua ennesima stagione, che va a cominciare la 14ª stagione di South Park, nel primo episodio si dedica con la massima attenzione, in modo completamente spietato, a Tiger Woods, no? il campionissimo caduto vittima della dipendenza da sesso, e qui c'è un Tiger Woods che fa una conferenza stampa dove però non dice quello che ha detto, un po' in maniera un po' ipocrita magari, il vero Tiger Woods, ma che dice: guardate che io l'ho fatto perché credo che avevo diritto di farlo in quanto ho lavorato tanto, sono un campione, ma che volete. Del resto, invece, nella vita reale, pensate che perfino Barack Obama in questi giorni, in queste ore, si è speso, no? in favore di Tiger Woods e del suo rientro. Quindi South Park parla di Tiger Woods, analizza il fenomeno, dice il comunicato stampa: uomini ricchi e di successo che improvvisamente vogliono fare sesso con molte molte molte donne, e dopo delle prove e dei test anche alcuni bambini della scuola elementare di South Park, quarta elementare, è stata raggiunta la diagnosi di dipendenti dal sesso. Insomma, avete capito i nostri eroi Cartman e soci su quale pericoloso declivio li ritroveremo. I have never ever derided Reggie with the chant Cheryl. Cheryl. Cheryl. Ah, quello che canta qui è Spike Lee. La storia è molto complicata, ma poi si riassume in un film documentario. Spike Lee è un fan del basket, anche noi siamo dei fan del basket, ma questo non frega a nessuno. È uscito un film sul basket e noi non perdiamo occasione di segnalarvelo. Secondo me arriva presto anche dalle parti delle nostre televisioni satellitari. Si chiama Winning Time, il tempo di vincere, ed è un documentario su Reggie Miller, che è stato un grande campione del basket. basket anni 90, ma soprattutto è stato un grande antagonista, un adorabile nemico, diciamo così. Il film in realtà è la storia della rivalità, che in certi casi sfociava in cose pesantissime, insomma, tra Reggie Miller e l'intera città di New York. In pratica Reggie Miller giocava contro le altre squadre, ma in particolare giocava contro i Knicks, contro la squadra di New York, e faceva cose pazzesche. Una volta fece 8 punti, mi sembra, in 5 secondi, vincendo grazie a quegli 8 punti una partita di playoff. Insomma, fra tutta New York compatta, comprese le zone suburbane, e Reggie Miller c'è sempre stata una storia aperta, che ora viene raccontata, celebrata da questo film carico di ironia, che viene trasmesso da ESPN, replicato da ESPN, e probabilmente vedremo prestissimo anche da noi, firmato da Dan Clores, che è un fan dei Knicks, che ha intervistato tantissimi che hanno testimoniato quella vicenda così appassionante, fra cui appunto Spike Lee, e con un sottotesto altrettanto interessante: dire l'NBA, ma un po' lo sport professionistico, forse perfino lo sport in generale, solo 10-15 anni fa era diverso da quello di oggi. Era in certo senso più violento, ma forse soprattutto più intenso, ovvero meno televisivo, no? Meno preconfezionato. Le rivalità, le antipatie, gli odi, le grandi battaglie avevano questo tono epico. Oggi un po' meno. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. Infine, fate una ricerca su internet o cercate sulle televisioni musicali, ma non perdetevelo, perché questa è musica, ma è musica soprattutto da vedere, anche perché poi sono 9 minuti di vero e proprio film. La canzone ne dura meno della metà, si chiama Telephone, è il videoclip di Lady Gaga e Beyoncé insieme, firmato da un regista stranissimo che si chiama Jonas Åkerlund, e che era un metallaro, poi si è dato alle immagini, al cinema, alle figure, come diciamo noi, ha lavorato tanto con Madonna, adesso dichiara ufficialmente che Lady Gaga è la nuova Madonna, Madonna passa all'imperfetto e Lady Gaga ne occupa lo slot. Il video è straordinario, perché è un insieme di vissuto di immagini pop, della pop culture americana. C'è Cell Block Number 9 dentro, c'è Thelma & Louise, c'è praticamente tutto Tarantino, c'è il cinema anni 40, ci sono ogni tipo di sollecitazioni, c'è anche tanto soft porno, perché insomma non è proprio un video per ragazzi. Lady Gaga conferma la sua capacità di essere un personaggio metamorfosi, in continuo cambiamento, in continua evoluzione, con una faccia, mille facce, sarebbe piaciuta perfino a Pirandello. Qui ne fa di tutti i colori, ambiente carcerario, poi una fuga, poi si finisce in un diner, in un fast food, prepara dei panini che uccidono gli uomini con cui li mangia. È un trionfo femminile, c'è anche tutto questo aspetto della sessualità di Lady Gaga, che la fa così protagonista nel XXI secolo. Vi ripeto, a costo di andare a caccia dentro internet, salvatevi 10 minuti per vedere Telephone. Beh, c'erano un po' tutti dentro anni 10 di oggi, no? C'era John Lennon, c'era Mark Twain, Salinger, le band punk del New Jersey, c'era South Park, Lady Gaga, c'erano naturalmente Doritos, ma anche Michelle Obama, perché noi osserviamo la par condicio qui ad anni 10. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia c'è Valerio Rocchetti, la nostra mail è anni10@radio24.it, abbiamo un profilo Facebook da cui potete risalire a tutti i materiali che vi sottoponiamo e osservarli, studiarli, analizzarli in prima persona, ed è Anni 10 Radio 24. E poi c'è anche un'altra pagina Facebook per parlare con noi, che si chiama Anni 10. Ci sentiamo tra una settimana.